Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi presento una storia della capitale, una storia di Roma nel Novecento fino agli anni Sessanta. Il libro si intitola Dal piacere alla dolce vita, Roma 1899-1960, una capitale allo specchio, ed è di Gianni Borgna e Antonio De Benedetti. È pubblicato da Mondadori, 292 pagine, 35 euro. Si parte dunque dalla Roma d'Annunziana, quella appunto del piacere, per esaminare come è evoluta l'immagine, ma anche la cultura, la realtà urbanistica, la società, la politica che nella città ha sempre avuto sede. Questi aspetti sono affrontati in brevi capitoli illustrati, dedicati ciascuno a un protagonista, un fatto, un evento particolare, che sono inframmezzati questi capitoli con alcuni interventi di vari intellettuali. Ritroviamo in questa carrellata anche delle pagine di storia un po' trascurate, un po' dimenticate, per esempio il periodo del primo e unico per moltissimi anni sindaco laico della città, e cioè Ernesto Natan, che venne eletto nel 1907 per entrare rapidamente in rotta di collisione con gli interessi immobiliari dell'epoca. E poi, seguendo questa storia, troviamo anche pagine più recenti che sono i momenti nei quali la città viene di nuovo riproiettata a livello internazionale, per esempio con le Olimpiadi del 1960 e poi con l'epopea della Dolce Vita, sulla quale appunto si conclude il libro. E sentiamo da questo capitolo appunto alcune righe che si riferiscono al significato che ebbe quel film, La Dolce Vita, 50 anni fa. Il 1958 è l'anno nel quale economisti e sociologi datano l'inizio del boom economico. E anche la capitale stava definitivamente cambiando pelle per diventare, con i suoi 2 milioni di abitanti nel 1960, quello che non era mai stata: una metropoli internazionale. Era consapevole Federico Fellini di stare interpretando tutto questo? Di stare mettendo mano a un affresco che qualcuno si sarebbe poi spinto a considerare un satiricon dei nostri tempi? Probabilmente no, anche se non dobbiamo dimenticare che aveva al suo fianco uno scrittore di costume di grande sensibilità come Ennio Flaiano. Quel che davvero conta è che il film fu un'esplosione nel pantano del conformismo politico di quegli anni, culminati proprio nel 1960 con le vicende del governo Tambroni, e che lo stacco anche dal suo cinema precedente fu grande e persino sconcertante. La Dolce Vita, che uscì nelle sale nel febbraio del 1960, attirò su di sé gli strali dei bigotti e dei conservatori, che lo contestarono più o meno apertamente nel corso delle prime proiezioni e inviti al Cinema Fiamma di Roma e al Capitol di Milano, dove, tra l'altro, uno spettatore rimasto anonimo sputò sul regista riminese. Mentre la sinistra, più che altro per partito preso, lo difese e consigliò al pubblico di andare a vederlo, indicazione che si rivelò inutile perché, contro tutte le previsioni, sin dalle prime proiezioni al Capitol di Milano, la folla, immensa, sfondò le porte di cristallo pur di poter entrare, mentre tutti gli altri protestavano per essere rimasti fuori. È probabile che la gente temesse che il film venisse sequestrato e fosse curiosa di vederlo prima che ciò accadesse. Un'altra prospettiva sulla Roma questa contemporanea è offerta dal libro di Andrea Carraro, che è uno scrittore romano, e si intitola Da Roma a Roma, viaggio nelle periferie della capitale, pubblicato da EDS, 172 pagine, 10 euro. Questo è un reportage scritto con penna da scrittore su molte facce della capitale. Si parte, forse inevitabile, da Pierpaolo Pasolini, che entra nel libro con la descrizione del luogo in cui fu ucciso, all'Idroscalo. E poi troviamo molte altre zone di Roma, del centro e della periferia, fino alla torre che chiude il libro e che ci ricollega appunto a Pasolini, perché una torre ormai fuori Roma, nel Viterbese, quella dove viveva Pasolini, dove si ritirava Pasolini per scrivere. Sono questi di Andrea Carraro degli squarci di vita contemporanea. C'è per esempio la cronaca di una cena organizzata da una coppia di parvenu molto fiera della coppia dei domestici filippini che ben presto li tradirà. Ci sono cronache di rapporti complicati con gli extracomunitari, cronache di spettacoli e performance di periferia, insomma un grande affresco sulla città e sui romani, scritto con grande affetto e simpatia per trasmettere realtà sconosciute che concorrono però tutte insieme a fare l'anima autentica di questa grande, grandissima città. Sentiamo per esempio dal libro come si conclude la passeggiata di Andrea Carraro al quartiere Centocelle. Ormai sono quasi le 2 del pomeriggio e comincio a sentire un certo languore. Allora mi metto a cercare una rosticceria. Alla fine entro in una piccola trattoria fumosa piena di vecchi, dove divoro una matriciana gustosissima innaffiata da un quarto di vino bianco della casa un po' acidulo. Un vecchio sdentato, con la faccia rubescente da beone, attacca discorso. Mi chiede questo e quello. È cordiale, affabile, anche troppo per i miei gusti. Comunque alla fine gli mostro, chissà perché, la foto di mio figlio che porto sempre nel portafoglio. E in breve tutti i commensali se la passano da un tavolo all'altro, complimentandosi con me e commentando fra loro. «È bellissimo, lo mandi in televisione», mi fa una vecchia con un'aria compunta e dignitosa. Me ne vado grondante fierezza da tutti i pori e torno sulla piazza San Felice da Cantalice, che ormai è deserta, col vento che solleva in ampi mulinelli le foglie secche e le cartacce. Da Roma passiamo a Milano, dove continua l'iniziativa Alza il volume, se leggi fatti sentire, organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano. Sono le giornate della lettura che andranno avanti fino al 28 marzo. Nell'ambito di questi incontri, il cui programma potete leggere sul sito www.comune.milano.it/lettura, ci sono, come vi ho già detto domenica scorsa, alcuni appuntamenti organizzati assieme al Sole 24 Ore. Domenica prossima alle 11 a Palazzo Reale si svolge l'incontro sul libro Contro l'ora di matematica di Paul Lockhart, pubblicato da Rizzoli, 120 pagine, 12,50 euro, tradotto da Carlo Caparano. A questo incontro partecipa un illustre collaboratore del Sole 24 Ore, Umberto Bottazzini e Armando Massarenti. Sentiamo da Armando Massarenti che cosa racconterà domenica prossima. Contro l'ora di matematica può sembrare un titolo particolarmente provocatorio, ma in realtà ci dice esattamente il contrario di quello che è il significato letterale. Cioè, il nostro autore, Paul Lockhart, di cui parleremo con Umberto Bottazzini, in realtà sta facendo un elogio della matematica, sta facendo però una critica molto forte, molto serrata all'insegnamento della matematica, così come oggi viene esercitato nelle scuole. E dice Lockhart: la prima cosa da chiarire è che la matematica è un'arte, ma a differenza di altre arti come la musica e la pittura, la nostra cultura non la riconosce come tale. Cioè, quindi non è qualcosa di arido o di automatico, come troppo spesso succede che venga presentata nelle scuole, ma addirittura, dice Lockhart, non esiste nulla di più poetico e di visionario, nulla di più radicale, sovversivo, psichedelico della matematica. Ecco, io credo che Lockhart abbia sostanzialmente ragione, anche perché la matematica è comunque un insegnamento che dovrebbe essere decisivo nelle nostre scuole. Purtroppo l'Italia, come ha più volte sottolineato il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, non risulta mai molto brillante nelle prove che si fanno con i ragazzi per quanto riguarda la competenza matematica, ma soprattutto la matematica potrebbe anche essere una palestra per un divertimento, cioè dove certo c'è una fatica creativa, che però è quella che riguarda anche qualunque tipo di altra arte. È un faticoso lavoro creativo, dice Lockhart, e questo è ciò che rende così difficile insegnarla, e non si può neppure insegnare a insegnarla come pretendono le scuole psicopedagogiche. Insomma, allora che fare? Ma innanzitutto io direi leggere questo bellissimo libro, Contro l'ora di matematica, un manifesto per la liberazione di professori e studenti, che è appunto un esempio di come si possono inventare moltissime soluzioni, moltissimi ragionamenti, ed è pieno di esempi su come appunto possiamo esercitare il nostro pensiero in proprio attraverso dei problemi spesso anche molto divertenti. Sempre domenica 21, nell'ambito di questa iniziativa, si svolge l'omaggio ad Alda Merini con tre appuntamenti che avranno inizio alle 15.30 e proseguiranno poi con l'ultimo incontro alle 21 al Teatro Dal Verme. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Abbiamo passeggiato per Roma, ma siamo intanto passati a Milano e quindi continuiamo a passeggiare per Milano, questa volta con Gianni Biondillo e Michele Monina. Il libro che hanno scritto si intitola Tangenziali, due viandanti ai bordi della città, è pubblicato da Guanda, 312 pagine, 17 euro. Questo è il viaggio un po' folle, possiamo ammettere, di due scrittori, il primo che è anche architetto, Biondillo, il secondo che è anche critico musicale. Il primo, Biondillo, che è milanese di nascita, e il secondo, Monina, che invece è milanese di adozione. Loro effettuano un ben curioso viaggio, ispirandosi anche a un libro di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, cioè London Orbital di Jane Sinclair, che è pubblicato dal Saggiatore. Cioè una lunga passeggiata, non continua per la verità, a tappe, lungo le tangenziali milanesi. E i due scrittori viandanti si collocano dunque in mezzo al traffico e allo smog e compiono un percorso che si trasforma in una serie di riflessioni da una prospettiva veramente singolare sulla città, colta anche attraverso alcune immagini prese durante il percorso che arricchiscono il libro. Un libro che è davvero a quattro mani, perché i capitoli sono alternati dai due scrittori su ogni singola tappa, e questo artificio permette anche di cogliere il diverso atteggiamento di chi è milanese e di chi milanese è diventato. Voglio segnalare in particolare alle lettrici milanesi il giudizio entusiasta che Biondillo dà sulle donne milanesi, che giudica bellissime. Le donne di Milano sono bellissime, ma questo non basterebbe, sono eleganti, forse le più eleganti d'Italia. Complimenti alle nostre ascoltatrici milanese. Ma sentiamo adesso uno dei due autori. Buongiorno a Michele Monina. Buongiorno a tutti. Dunque, lei ha fatto questo giro sulle tangenziali milanese assieme a Gianni Biondillo. Come sembra la città vista da quel punto di vista, da quell'osservatorio? Decisamente differente da come appare passeggiando in centro. Innanzitutto perché tutta la cinta milanese, quella delle due tangenziali est e ovest e del pezzo dell'A4 che le congiunge nella zona nord, è un punto di vista che chiunque capiti a Milano in macchina ben conosce, perché solitamente è costretto a rallentare, spesso anche a stare in coda, ma che in tutti i casi non è abituato a vedere attraverso lo sguardo del camminatore. E in tutti i casi è una Milano, come dire, periferica, ma diversa anche da quella delle periferie abitate, perché, non so, noi abbiamo visto la zona del Parco Sud, che solitamente è abbastanza schivata dai milanesi, che non la considerano per quello che in realtà è, cioè il vero polmone verde della città. Diciamo che noi abbiamo fatto una passeggiata dietro le quinte, non so se così si può dire, prendendo Milano come se fosse il palcoscenico del teatro che tutti conoscono, quindi il Duomo, le vie del centro, Buenos Aires e quant'altro. Noi eravamo dietro le quinte, quindi vedevamo tutto quello che c'è per far sì che esista il palco, no? Cioè abbiamo visto quelli che tirano i cavi, che tengono le luci, che sorreggono l'impalcatura. Ecco, lì da questo giro emerge anche il fatto che la periferia di Milano in qualche misura è una periferia diversa e anche più ricca di altre periferie. Non c'è soltanto degrado, non ci sono soltanto case popolari, non ci sono soltanto strade, edifici abbandonati, ma ci sono anche campi agricoli, ci sono abbazie, ci sono cascine. Ecco, lei pensa che Milano abbia una sua caratteristica anche da questo punto di vista? È quasi impossibile parlare di un'unica periferia, no? Perché uno si immagina la periferia e soprattutto la periferia milanese con un insieme di casermoni fatti più che altro per andarci a dormire, ma in realtà noi abbiamo iniziato la nostra camminata a partire dalla tangenziale est e ben presto ci siamo accorti appunto che c'è tutta un'area verde, che è il cosiddetto Parco Sud, che però, nonostante il nome dica sud, occupa una buona fetta dell'interland milanese, che appunto è costituito prevalentemente di campi, all'interno dei quali ci sono diverse abbazie costruite dai frati della Congregazione degli Umiliati, che all'epoca, come dire, svolsero un'opera fondamentale, cioè bonificarono tutta una zona che era malsana e la resero, come dire, resero questa zona coltivabile. E poi c'è, non so, ad esempio tutta la parte nord, nonostante che anche lì c'è un parco che si chiama Parco Nord, invece ad esempio è cementificata, è piena di fabbriche e di appartamenti anche a ridosso della tangenziale stessa, quindi non esiste un'unica periferia. Sicuramente facendo questa camminata noi abbiamo incrociato realtà diverse, ci sono anche diverse cosiddette new town, per usare un termine caro a chi si intende di edilizia, cioè queste nuove cittadelle che inizialmente sono sorte nella fascia nord-est di Milano, ma che adesso la circondano un po', che sono veri e propri centri residenziali, non diversi da quelli che si trovano nei borghi intorno a Londra o a Parigi, per intendersi, e che sono come delle cittadelle fortificate, dove lo stesso si va solo per dormire, però in una situazione sicuramente più agevole, ad esempio, di chi vive nelle case popolari. Milano, per come c'è parsa, Milano e tutta la fascia di paesi che la circonda, che nonostante non facciano parte di Milano, perché sono appunto altri comuni e in alcuni casi addirittura non facciano neanche parte della provincia di Milano, visto che da poco è sorta la provincia di Monza e Brianza, Milano sembra l'unica vera metropoli che noi abbiamo in Italia, anche più di Roma, che sicuramente è molto più grande rispetto a Milano, ma che è una città vera e propria, mentre Milano appare come una metropoli sulla falsa riga delle grandi metropoli europee, in scala ridotta, questo va detto per questione di numeri, però quello è. Senta, il suo partner, il partner di camminata, cioè Gianni Biondillo, in qualche modo lamenta nel suo libro che lei era molto critico su Milano e che fra i due Biondillo, che è milanese, fosse un pochino più simpatico. In che cosa differite nel giudizio sulla città, sulla metropoli, anzi? Innanzitutto, vabbè, chiaramente il nostro è stato un po' un gioco delle parti, nel senso che essendo due scrittori e quindi dovendo raccontare la città con due punti di vista, che erano i nostri due punti di vista, abbiamo un po' calcato la mano sulle nostre differenze, quindi diciamo io facevo il poliziotto cattivo e lui faceva il poliziotto buono, dando per scontato che Milano nel caso specifico fosse, diciamo, il sottoposto all'interrogatorio. Io, allora, la premessa è, io non sono milanese di nascita perché vengo da Ancona, ma sono ormai milanese da 13 anni, quindi conosco la città e la conosco anche dal punto di vista delle tangenziali perché sono un automobilista, mentre Biondillo, che è milanese di nascita, non conosceva le tangenziali perché non ha la patente. Quindi, come dire, abbiamo affrontato in realtà una Milano più vicina a me che vicina a lui. Io credo che Milano, per come mi è stata raccontata da sempre, cioè da quando vivevo ad Ancona, ma anche da che viva Milano dai milanesi, è un po', come dire, regredita invece che, cioè non si è molto evoluta come ci stanno raccontando, e passeggiando per questa terra un po' strana che è la terra che circonda, no, il centro, un po' ce ne siamo accorti perché ad esempio siamo andati a passeggio nella zona dove sorgerà il polo per l'Expo e devo dire siamo andati lì ma non abbiamo capito cosa succederà fra ormai 4 anni, non fra tantissimo. E in tutti i casi abbiamo visto tutta una serie di fabbriche che sono state per anni il cuore pulsante della città, che adesso non sono più fabbriche ma sono capannoni con le insegne divelte e che quindi, come dire, prima o poi dovranno in qualche modo dar vita a qualcos'altro. Grazie Michele Monina, buona domenica. Altrettanto. Agli appassionati di Milano segnalo una nuova collana della casa editrice Lampi di Stampa, si chiama Ars et Labor, è stata organizzata in collaborazione con l'Università degli Studi Milano Bicocca, con la Biblioteca Centrale Comunale Sormani, con la Biblioteca Braidense, e ripropone in versione anastatica, cioè nelle edizioni esattamente identiche a quelle originali, alcuni titoli della cultura milanese. Vi segnalo in particolare la Guida Storica del Castello di Milano 1368-1891 di Luca Beltrami. Luca Beltrami fu l'autentico salvatore prima e poi il restauratore del castello. Il castello a un certo punto il castello di Milano stava per essere distrutto, anche perché si voleva fare una grande operazione immobiliare, e invece Luca Beltrami riuscì a coinvolgere molti interessi, a coalizzarli per salvaguardare questo reperto. E poi lo ricostruì secondo il gusto dell'epoca, ma certamente riuscì a rendere questo monumento un punto affascinante che è diventato un simbolo della città di Milano. E in questo libro troviamo appunto la storia, una storia molto importante che si svolse in quelle sale, dove operò tra l'altro un grande organizzatore di eventi, come diremmo noi oggi, che risponde al nome di Leonardo da Vinci. E proprio Leonardo, organizzatore di feste, troviamo nel giallo di un'autrice americana, Diane Stuckart, La mossa dell'alfiere, pubblicato da Nord, 360 pagine, 18,60 €, tradotto da Roberta Zuppet. Siamo dunque nella Milano del 1483 e Leonardo, un quadro del quale è conteso nel libro tra il duca Ludovico il Moro e l'ambasciatore di Francia, dovrà indagare su un delitto che ci fa ripiombare nel clima sfarzoso, ma anche sospettoso e crudele, di quella corte che fu certamente una delle più splendide d'Europa. Il confettino. Ci riporta l'enciclopedismo di Leonardo il titolo Il gatto non fa miau e altre 199 scoperte con cui fare bella figura in giro, di Federico Bini, illustrato da Fabian Negrin. 182 pagine, 13 €, pubblicato da Gallucci. Qui troviamo molti riferimenti alla fisica, alla psicologia, alla tecnologia, alla biologia, tanti altri capitoli dello scibile affrontati attraverso presentazioni di brevi testi e illustrati con dei particolari curiosi che non mancheranno di scatenare l'interesse dei lettori più giovani. E a questo punto ringrazio Vittoria Mussini, Emanuela Sicuro in redazione, Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi ricordo anche il sito al quale potete sempre ascoltare o riascoltare le nostre trasmissioni, www.radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.